I lavori di domani, di Anna Marino. La figura professionale del private banker richiede un giusto equilibrio fra competenze tecniche e capacità relazionali. Oggi sono circa 16.000 i private banker in Italia, con un'età media di 49 anni. Questa figura richiede tempo, preparazione e dedizione. Una buona base di partenza consente di raggiungere gli obiettivi con maggior consapevolezza. Per questo è nato il primo master post universitario in private banking and wealth management, disegnato e realizzato dall'Associazione Italiana Private Banking, e nasce con la motivazione di creare un percorso formativo che corrisponda ai reali bisogni dell'industria. In attesa dell'Open Day che si terrà il prossimo 5 marzo presso la sede dell'IPB, una giornata di orientamento per promuovere la nuova iniziativa pensata per giovani neolaureati, ne parliamo oggi con Antonella Massari, segretario generale di IPB, e Silvia Lepore, direttore scientifico del Master che IPB ha appena lanciato. Antonella Massari ci dice: quali nuove skill sono necessarie a queste figure? Fondamentalmente queste figure devono avere una forte competenza tecnica, ovviamente, però questo oggi non basta, anche perché se al centro c'è sempre di più il cliente, il cliente è una persona, quindi questa persona la dobbiamo soprattutto ascoltare quando parla di temi che lo toccano particolarmente, come la gestione del proprio patrimonio. Quindi è importante che chi poi lo consiglierà e lo aiuterà a mantenere e a crescere il suo patrimonio abbia la capacità anche emotiva, sia in grado di essere vicini e di comprendere i suoi bisogni e anche di riuscire a capire quali sono i suoi interessi, perché poi anche un altro aspetto è di crescere la fiducia e l'apertura nella relazione. Delle skill che devono essere acquisite, portate avanti, oltre diciamo alla base della formazione del private banker. Sì, diciamo, alcune sono doti anche naturali, quindi bisogna anche capire se questo è un mestiere che ci piace fare, perché è un mestiere di relazione anche molto. Viceversa, una persona che richiama un po' l'uomo universale, no? Che ha un po' tutti e due gli aspetti, sia un interesse sulla tecnicalità, perché comunque è importante, e anche però un interesse verso l'uomo e le sue caratteristiche. Ci vuole comunque una formazione di base. Quale dovrebbe essere? Ma possono essere varie. Nella nostra esperienza, ovviamente, una formazione economica aiuta. Però devo dire che noi, per esempio, abbiamo aperto questo corso per coloro che si laureeranno in ingegneria gestionale, perché c'è anche molta tecnicalità che è vicino, no, alla mentalità degli ingegneri, però anche una formazione con un interesse verso gli aspetti legali può essere importante. E poi in generale la curiosità, nel conoscere anche altre cose laterali, ma che aiutano nella relazione. Ecco, abbiamo visto che appunto non solo ci vogliono delle skill anche professionali, ma anche delle soft skill, cioè quelle caratteristiche umane che è molto importante avere. Silva Lepore, che cosa prevede questo master appunto per andare incontro all'industria, così come abbiamo detto, e per quali esigenze appunto della professione è nato, per andare un po' avanti rispetto alla preparazione di base? È nato per individuare quale può essere la preparazione necessaria per formare il private banking del futuro, perché lei ha anticipato, sono 16.000 oggi private banker, hanno un'età media di 49 anni, hanno portato dei risultati del tutto ammirevoli, quindi hanno ancora un bel percorso da svolgere, e noi immaginiamo che possano essere le figure adeguate per accompagnare la futura generazione dei private banker o di coloro che apparteranno al mondo del private banking, che sarà completamente diversa. Saranno diversi i clienti private e diverso il private banker, sia per una questione di modifica del contesto culturale, economico, finanziario e soprattutto per il grande apporto che verrà introdotto anche nel mondo del private banking di tutto ciò che riguarda la digitalizzazione. È un aggiornamento che tutte le professioni devono fare e questo è un passo avanti che deve essere fatto. In ogni caso, l'esperienza è la base. Come si svolgerà insomma questo master? Quali saranno appunto questo passaggio di testimone, fondamentalmente, che diceva, tra le varie esperienze? Sarà un passaggio di testimone abbastanza lungo, perché è un mestiere che richiede tempo. Il programma del master è formato da 8 mesi di cui due sono di formazione frontale, si terranno tutti qui a Milano, principalmente presso il Centro Congressi Le Stelline, zona Cadorna. In alcune giornate anche lo faremo presso la sede dell'IPB, circa 300 ore di didattica, a cui seguiranno 6 mesi di formazione invece sul campo attraverso una formula di stage remunerato, quindi andrà ad abbattere il costo del master complessivo, presso 25 istituti finanziari che hanno aderito all'iniziativa, cioè praticamente tutte le grandi strutture oggi associate ad IPB che hanno una specializzazione nel private banking. I primi 2 mesi saranno fondamentali perché accompagneranno i ragazzi attraverso un percorso abbastanza modulare. Siamo fieri di aver costruito una faculty prendendoli da parecchie università distribuite sul territorio nazionale. Inoltre l'Accademia, che garantirà la conferma o il rafforzamento delle competenze, delle conoscenze tecniche che abbiamo detto sono indispensabili per fare questo mestiere, lo saranno sempre più, verranno alternate da testimonianze da parte delle 25 banche, quindi che verranno a raccontare se stesse, quindi la loro organizzazione attraverso una numerosità di interventi che abbiamo previsto, ma anche attraverso testimonianze da parte di studi professionali, commercialisti, avvocati, ma anche a parte a mondi che sono diversi dal nostro, come le chiamiamo interventi di cose da altri mondi. Ecco, questo è importante perché i passaggi di testimone, l'esperienza fa da base poi per il futuro e così appunto Antonella Massari può essere più utile alle imprese un tipo di formazione. Diciamo subito che è il primo master ed è inedito ed è veramente importante perché va veramente incontro alle imprese. Sì, la particolarità di questo master che è stato costruito dall'interno. Quindi è una formazione che nasce dai bisogni e dall'esperienza. E quindi è consigliabile, lo consigliate entrambe? Assolutamente sì. Coloro che amano il mondo degli investimenti hanno un'occasione veramente unica, perché è un programma molto articolato e poi la vita nel concreto da provare subito. Una prova, lo vorremmo fare anche noi questo corso. Purtroppo non abbiamo il tempo, a parte Silva, l'unica fortunata, di poter essere presente tutti i giorni.